Siamo su Radio Bawalla, siamo con Giugiu degli Assyrian e parleremo ancora di Anai Ladies Festival. Ciao Giugiu. Ciao. Ciao, voi siete degli Assyrian e Grazie. Vi volevo subito chiedere da quanto tempo suonate insieme? Ma suoniamo un paio d'anni più o meno. Ottimo, e cosa ci potete raccontare di questa manifestazione alla quale suonerete? È una bella iniziativa e dà spazio a gruppi sia già abbastanza affermati, sia internazionali che a gruppi un po' più emergenti. E c'è un divario neanche troppo grosso tra i nomi più importanti e quelli più i primi nomi, a mio avviso. Questo per te sarà il secondo anno? È il secondo anno, ci siamo stati anche l'anno scorso, abbiamo suonato con un'altra band, io e Nicolò, che è il batterista, suoniamo nei Remington. Ed è stato, l'anno scorso è stato davvero bello, è stato davvero un bel festival. Il contesto è decisamente, decisamente carino, ci sono vari palchi. Voi quest'anno in quale palco suonerete? Suoniamo, non mi ricordo il nome, quello palco dell'esploratore, che è quello più grosso. Abbiamo suonato l'anno scorso, sia quest'anno. Complimenti, che emozione dà suonare su un palco così grande, con direi anche abbastanza gente di fronte a voi? Beh, fa strano perché ti senti, di solito non ti senti mai, non puoi sentirti mentre suoni. Lì invece hai dei monitor da cui esce il suono che fai, e quindi è una sensazione un po' alienante. Però è bella dopo tutto, dopo un po' ci si abitua. Quindi un bel contesto pensato dall'organizzazione per far esprimere al meglio gli artisti e la loro creatività. E ecco, per esempio, come nascono le vostre canzoni? Cioè, mi metto lì la chitarra, io suono, esce una melodia, mi viene una melodia in testa e la metto in modi diversi. Di solito fino adesso ho scritto tutti i pezzi io e non ho un modo stereotipato di farli. C'è una cosa che ho in testa per un po' di tempo, poi a un certo punto mi metto lì e faccio il pezzo. Levami una curiosità, come vi siete conosciuti? Chi sono i componenti del gruppo? Allora, io, poi c'è Carlotta che è qui con me. Ciao. Carlotta suona le tastiere, Nicolò il batterista e Giovanni suona la chitarra. E niente, io e Gio ci conosciamo da un po', avevamo anche un vecchio gruppo insieme e niente, poi è venuto a suonare con me così. Nicolò pure e Carlotta era un'amica di Nicolò che aveva conosciuto, lei di Forlì. E si è trasferita a Milano due anni fa e niente, l'abbiamo tirata in mezzo perché ci sta dentro, quindi. Grandi, quindi suonate a Milano, quindi avete a Milano, sì. E Giugiu, domanda di rito, perché gli Assyrians? Non l'ha inventato nessuno, l'ha inventato un mio amico che suonava con noi, però anche adesso comunque c'è vicino. E niente, gli è uscito così a caso, sembrava un po' il nome di una band desert metal, però abbiamo deciso che andava bene. Avevamo appena registrato i primi pezzi e stavamo tornando a casa, avevamo registrato a Bergamo da un nostro amico Brown Barcella, che aveva uno studio in casa sua, sì, e ci è venuto in mente così a caso, perché non sapevamo ancora il nome. Sono sempre curioso di sapere l'origine dei nomi dei gruppi. Oltre a Chieverano, avete altre date in programma? Sì, suoniamo il 13 luglio a Vercelli, a Glu Glu Club. Poi suoniamo un festival in Sardegna, Futurescope Festival, che è a Fordigianus. È nelle Terme Romane, deve essere una figata. Complimenti. E poi torno prima in Sardegna, ma non so ancora dove, non sappiamo ancora dove. Ho capito. E poi non mi sembra altro per adesso. Allora, romperò una promessa che ti ho fatto. Ti chiedo se per caso conosci le licenze Creative Commons, che sono le licenze che noi utilizziamo. Noi siamo una radio in Creative Commons, appunto, e trasmettiamo solo contenuti di questo tipo e utilizziamo solo strumentazione open source. Voi siete sotto un'etichetta? Siete registrati alla SIAE? Non siamo ancora registrati alla SIAE. Abbiamo messo fuori l'EP con Bored Youth Records, che è un'etichettina che fa solo cassette, così, di nostri amici qui di Milano, che sono poi i due ragazzi del cane, E poi per il disco ci sarà un'altra etichetta. Certo, allora noi consigliamo a voi e ai nostri ascoltatori di venirci a trovare al nostro stand alla Night Ladies Festival, dove parleremo di Creative Commons, parleremo anche del suo modello economico, quindi come riuscire comunque a campare quello che chiedono sempre gli artisti delle proprie opere, del proprio ingegno e della propria arte. E vi ringraziamo, ci vedremo il 20 luglio alla Night Ladies Festival. Giugiu, ci conosci il nostro slogan? Te lo dico io, è Don't be common, be creative. Vuoi dirlo anche tu? Don't be common, be creative. Ma fantastico, grandissimo. Allora grazie Giugiu, grazie agli Assyrian, ci vedremo presto alla Night Ladies Festival. Grazie mille. Grazie a voi, ciao.